Ben ritrovati cari amici con questo nuovo appuntamento di Io negli anni 90 c'ero la più bella musica anni 90 in esclusiva qui su Radio ICZ in blu. Io sono Joseph Meloni, al di là del vetro c'è DJ Mike che cura la parte tecnica. Partiamo con la prima canzone di oggi, Z100, arriva arriva quello che deve arrivare. Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, arriva, arriva quello che deve arrivare. Più quello che doveva arrivare. E qua diceva poi preoccupati pure, preoccupati pure. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Divertenti questi Z100, me li ricordo bene. hanno avuto un buon successo in Italia con questa canzone in quegli anni 90, incredibili per la musica dance. Andiamo avanti qui su Radio ECZ in blu, Joseph Meloni con voi, DJ Mike cura la parte tecnica per un altro grande pezzo anni 90, Far Jetta This Time. Direi che quest'oggi sono partito un po' tamarro, eh. La prima canzone arriva quello deve arrivare, arriva quello che deve arrivare, ok, scusate. Poi mi sono infighettato un po' con This Time di Far Jetta, ora torna di nuovo il momento tamarro. La mia parte tamarra esce ancora, questa volta in maniera, permettetemi di dirlo, pesante, perché arriva Mimmo Merelli alla console. avanti. E sai quali sono? Dicelo. E sai quali sono? Dicelo. E sai quali sono? Dicelo. E non lo so. Cassa, no, Mimmo no, sì. Mimmo Merelli, Radio CZ in blu. Io negli anni 90 c'ero la più bella musica anni 90 con Joseph Meloni alla voce, DJ Mike che cura la parte tecnica. Un'altra bella canzone, 1995, ve la ricordate tutti? 95-96, Quadran Eternally. Ma sì, deve essere proprio il momento oggi un po' così, un po' come dire, tamarro. Dai, ormai siamo partiti con questa definizione, con alcuna musica. E anche questa canzone che ho scelto, ahimè, rientra in questa definizione. Gabry Ponte, Little Tony, figli di Pitagora. Siamo figli di Pitagora e di Casa Dei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Machiavelli e di cresciuti con una morale cattolica. Morale cattolica. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo. Cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli. E poi diciamolo, sono ancora le canzoni più belle queste qui per ballare in discoteca, eh. Che ne dicano, quando c'è la serata anni 90, anche i ragazzi di 20 anni di oggi la ballano volentieri. Quindi vuol dire che quella dance lì degli anni 90-2000 è ancora oggi il top. Non lo dico da DJ anni 90-2000 che ha avuto la fortuna di suonare nei locali importanti di quegli anni davanti a migliaia di persone. Genux Number One, Fura, Viva Beach Party, insomma chi più ne ha più ne metta, c'è stata tanta tanta occasione di suonare davanti a migliaia di persone, quindi con il vinile c'era proprio un altro tipo di come dire, respiro e intrattenimento. La gente andava nei locali, andava in discoteca per ballare e per ovviamente fare amicizia, però il concept tavoli, guardare il cellulare, non esisteva niente di tutto questo, per cui quegli anni là con quella musica c'era un'energia pazzesca. E oggi noto che comunque anche i ragazzi di oggi, ventenni, a parte il trap, se si trovano nella situazione giusta, nella serata giusta anni 90-2000, ballano molto volentieri. Quindi dai, avanti ancora con un bel po' di questa musica. Jimmy Gomma, More Than This. I couldn't feel you love the time there was no Siamo arrivati al termine, Io negli anni 90 c'ero, finisce qui questa puntata, questa trasmissione dedicata alla musica degli anni 90. Io sono Josef Meloni, ringrazio al di là del vetro DJ Mike che ha curato la parte tecnica e vi aspetto sempre qui su Radio ECZ in Blu. Gli appuntamenti durante la settimana sono diversi. C'è l'appuntamento con la musica anni 90 che avete appena ascoltato, il lunedì c'è Revival, il contenitore della musica del passato, dove racconto molto della musica del passato, quindi è molto parlato e anche musica, a differenza di questo che è più musica che parlato. Il venerdì la classifica, che poi è in replica anche nel weekend sabato e domenica, dei più ballati in Italia, i più ascoltati alle radio. E sabato mattina con mio figlio Francesco Meloni in diretta dalle 9 a mezzogiorno, Radio Puff per chi ama ballare. Lì siamo proprio in diretta da Polpenanze del Garda, quindi mi raccomando, il sabato mattina accendete la radio e mandateci un messaggio 340 54 18 51 4 e vi saluteremo in diretta. Buona musica su Radio ECZ in Blu. Ciao!